Allora, questo è il secondo capitolo della sesta parte di questo discorso, dove abbiamo detto che, come dicevo prima, abbiamo visto la scorsa volta che la Neshama nella sua discesa verso questo mondo, superando gli ostacoli e le distrazioni e così via dicendo, accede e arriva ad una salita molto più elevata, ad una vicinanza con il divino molto più profondo rispetto a quanto era prima della sua discesa in questo mondo. Dice però adesso, diremo nel secondo capitolo, qual è il sentimento ora della Neshama e di conseguenza di tutto il concetto di Malchut, ovvero tutta quella parte che chiamiamo Shekhinah, tutta quella parte del divino che è investita nella creazione, quindi in un certo senso è esiliata, per così dire, dalla presenza, diciamo così, aperta, rivelata del divino, ora è in uno stato di sete, come abbiamo fatto questa metafora citata dalla Torah. Omnam achshav, però ora, in esfirata malchut itzmea. Questa sfera, questa sfera di Malchut, è in uno stato di sete, cioè mitzad yeridata, a causa della sua discesa, sheyardah, che appunto è scesa venitlabsha e si è vestita, cioè viene ad investirsi bivriya yetzirah asiya, nei tre mondi inferiori. Bibchinat Simaon, il suo desiderio è uno di sete, cioè la Alot Miridata, che vorrebbe risalire su dalla sua discesa, Velikalel Beshorsha, e riessere riunita con la propria radice nel divino. E la stessa cosa diventa anche la realtà della Neshama, in particolare. Chen hu gamba neshamot. La stessa cosa riguarda le anime. Sheal yedei hitlabshutam baguf, tramite il fatto, a causa del fatto che si vestono, cioè vanno a entrare dentro il guf, cioè il corpo, venefesh abahamit e l'anima animalesca, che appunto la neshama scende dalla sua grande, dal suo grande livello. Sheyardah haneshama mi madregata, mikemo shehaita kodem itlabshuta baguf, scende dal livello in cui si trovava prima che fosse entrata in un corpo. Sheaita bivchinat tachlit aruchaniyot. E qual era questo livello? Era totalmente spirito, niente materia. Velo haita shayechet, e non aveva alcun rapporto legame al yeshut vegashmiut, alla Gashmiut è la parola più facile da tradurre, cioè materia, e Yeshut vuol dire esistenza, ma quello che si intende per Yeshut è una percezione di sé come ego, come io separato dalla sua radice, separata dalla sua radice. Non esisteva questo tipo di sentimento per la Neshama, era uno con la sua fonte, Era tutto uno. era tutto uno. Umikol Sheken, e a maggior ragione, Shelo Haita Alula Chas Veshalom, che Maisia non aveva nessun legame con la possibilità all'ered di scendere nel senso negativo della parola, Uleitgael, e di addirittura sporcarsi, tra virgolette, Liot Hepech Melokut Chas Veshalom, di entrare in qualcosa che possa essere il contrario del desiderio del divino. Cioè, non solo non arriva a questo, ma neanche ha una percezione di sé oltre quella del divino stesso. C'è un ulteriore livello di legame. Mentre invece il contrasto avviene quando scende e entra in un corpo, ubeyeridatae nella sua discesa baguf, dentro al corpo fisico, materiale, aregam kesheovedet avodata kanal, anche quando riesce a fare il suo, ad entrare nel suo ruolo vero, fa il suo servizio, avodà, serve Hashem, però comunque non è la stessa cosa. Anche se poele tachnaata chomer, anche se riesce a sottomettere la parte materiale di sé, ubitula yesh e cercare di annullare il più possibile il proprio ego, mikol makom, comunque tuttavia, hareisha yachala yeshut vegashmiut, è comunque sempre legata all'ego e alla materia, non c'è scampo quando siamo in questo mondo da questi elementi della vita, perché è come se si vestisse, si usa qua questo termine, è come se l'anima è divina, è rivestita dall'anima animale, che è rivestita dal corpo, non c'è scampo. Sharihi bibchinat itlabshut mamash, è proprio vestita, tra virgolette, in questo anima, in quest'anima animale. E quindi non è che si parla necessariamente che l'anima divina deve essere legata necessariamente con il male, anche se riesce a non essere legata con il male. È comunque tutta un'altra realtà, come adesso va avanti a descrivere. Il fatto stesso che ci si occupa di questioni materiali anche a livello di teoria. Anche questo non c'era quando la Neshama era un tutt'uno con il divino. Che Moshe poelet peulot gashmiot, così come si la Neshama deve poi agire attraverso il corpo, no? Con degli atti fisici materiali. Le askil binyanim gashmim, anche occuparsi a livello astratto, intellettuale, ma sempre di questioni materiali. Veascalava saga gashmiot, shekol ze lo hayaba kodem itlabshuta baguf. Tutto ciò non esisteva in essa prima della sua discesa nel corpo, poiché tutto il suo intelletto, shaya haskalata veasagata, e tutta la sua comprensione, era in quella situazione betachlita ruchaniyot vadakut, nel livello più solamente nello spirito, nella spiritualità e in ciò che è nella finezza delle cose, non nella materia delle cose, no? Nella parte raffinata della realtà, non la parte diciamo base. Ubinyanim ruchaniim, sempre questioni spirituali solamente, venalim eode, molto elevate. Mentre invece inyanim gashmiim, per ciò che riguarda cose fisiche e materiali, concetti materiali, ovvero rezzonil omar, intendo dire gam inyanim sikhlim, anche se sono concetti intellettuali, ok? Quindi qui non parliamo necessariamente di chissà che cosa, però già il primo approccio sono comunque gashmim e l'ashem gashmim. Sono concetti astratti, intellettuali, eccetera, ma sono comunque legati alla materia, che è una cosa che non conosceva prima di scendere in questo mondo, come ripetiamo. V'chol zehu mitzad itlabshut benefesh ativi abami. Come dicevamo prima, questo è solamente per il fatto che la Neshama, l'anima divina, si veste, tra virgolette, nell'anima naturale e animale. Kmoken mitzadze, e per lo stesso motivo, bichlalutana sala shaykhut li yeshut vegashmiut. Diventa, si apre, si crea questo rapporto tra l'anima e l'ego, l'identità distinta e la materia. Asher mikodem, cosa che prima lo aita la shaykhut zeklal, non era assolutamente legata a una realtà di questo tipo. E a causa di questo, di questa nuova realtà, potrebbe anche, diventa suscettibile a andare contro, corrompere, andare contro il desiderio di Hashem. Ace acholiot chas v'shalom, yeridah mamash, una vera e propria discesa, leitgael chas v'shalom, una corruzione, come la chiama. Ecco perché la Neshama è molto assetata. Mishum ze nasa tokef avzimaon be Neshama. Questa discesa, descritta come abbiamo appena descritto, fa sì che la Neshama abbia una intensa sete, una forte sete, la lot miridata, una sete che il senso di questa sete è quello di rivenire fuori da questa discesa, di risalire, ulei kalele mala, e di nuovo diventare un tutt'uno con la realtà divina. Shazimodona ze, anche questa sete la Neshama prima non ce l'aveva. Questa sete, questo desiderio, non esisteva nella Neshama prima che scendesse in questo mondo. Questa situazione, questa sete. No, no, dicevo, questa situazione, una volta che nel materiale, arriva a far aumentare gradualmente sempre più la sete per il ritorno. Proprio quanto più è nel materiale, quanto più le viene sete. Esattamente, proprio questo sta dicendo. Più è nel materiale, più è assetata per tornare nello spirito. E la davka gli dei ridata, proprio per la sua discesa, baguf, nefesh abiamit, nell'anima animale e nel corpo, mitzada yirida kanal, proprio per quella discesa, na sabato che farazon vatzimaon, 173 secondo paragrafo. E così come è nell'anima, di nuovo facciamo il paragone in generale con il concetto di Shekhinah e di Malchut. Di nuovo torniamo verso quel piano lì. Kemo ken hu bifchinat Malchut. Uguale è riguardo il concetto di Malchut. Shal yedei yeridata libria yitziar esia, attraverso la sua discesa. La discesa del divino nella Sefirah di Malchut, nei tre mondi inferiori, che sono già, diciamo così, divisi dalla realtà divina pura, se vogliamo, aliedei zei bifchinat simaon. Allora quella stessa Shekhinah, quella stessa Sefirah di Malchut, è come se fosse assetata, la lot le mala, di voler risalire sopra. Sì? Prego. No, lui sa, l'anima non si... quando ritorna dopo la vita, no? Ma si ricorda da dove è partita o no? Quando ritorna su? Sì, senza per sapere che è arrivato più alto, più basso, no? Se ha sete, vuol dire che ha quella percezione. Sente un'origine dalla quale tornare. No, sa che viene dal divino e va bene. Però, diciamo, le anime stanno, come hai detto prima, su vari livelli vengono, no? Sì. Partono da vari livelli, c'è chi più alto, più in alto e più in basso. Quando uno ritorna, si ricorda da dove è partito per sapere se è andato più in alto, più in basso, cose così o no? Non lo so se funziona così, vuol dire, quello che sta dicendo qui, che abbiamo imparato oggi, l'altra volta, è che la risalita della Neshama non è tale da non essere paragonabile alla sua fonte di origine. Cioè la Neshama, quando fa quello che deve fare in questo mondo e poi risale su, accede a qualche cosa che non era accessibile proprio per la Neshama prima che fosse scesa. E potrebbe essere il contrario anche. Perché? Perché se uno non fa quello che deve fare, se va non, ok, se non ha fatto quello che deve fare, allora deve tornare su questo mondo, dovrà scontare delle pene, non so. Però non è una questione di avere una percezione di un indirizzo, sì. Dove è stato, dove non è stato. È proprio un altro tipo di realtà, diciamo. Ti sta spiegando che il fine. Sì, certo. Giusto. Il problema è che quando torna va comunque in una dimensione, in un livello diverso da dove partiva. Quello sto dicendo. Prima, no? Sì, ma non solo il livello, è proprio un altro tipo di... quasi un'altra dimensione, possiamo dire. Come scritto qua prima, non aveva la percezione della medialità, adesso ce l'hai, quindi sicuramente... Quando scende. E quando risale, di conseguenza ce l'ha ancora, altrimenti sarebbe stato inutile scendere. Sì, no, lui sta dicendo un'altra cosa. La localizzazione del video. Esatto, però quello che dici tu, Davide, è scritto che è vero, che quando la Neshama parte da questo mondo e ha ancora la percezione di questo mondo, c'è tutta una fase attraverso la quale passa per dimenticare la percezione di questo mondo. C'è una cosa che è paragonata a un fiume dove deve immergersi, ovviamente nel senso spirituale della cosa, no? Nahar Dinur. Cioè, deve togliere quegli strati per accedere di nuovo a quello che, diciamo, ha guadagnato solo perché è stata in questo mondo. Allora forse possiamo dire che uno anche che ha fatto delle mitzvot e quindi, diciamo, ha accesso a quello che a cui può arrivare la Neshama attraverso la permanenza in questo mondo. Potrebbe aver fatto anche delle averot. Certo. Ok, allora se non ha fatto teshuvah, perché la teshuvah cancella le averot, certo. Se non ha fatto Teshuvah, allora deve essere ripulita, diciamo, la Neshama da quelle cose, però questo non toglie poi futuro, dopo quella pulizia, che accede a quel livello a cui è arrivato attraverso le mitzvot. Non viene tolto, non viene perso, sì. Diventa, diciamo, più difficile l'accesso a causa di quel blocco che ha anche creato, però quel blocco poi si toglie. Potenzialmente le anime hanno tutte lo stesso potenzialità? Credo di sì. Chachamim dicono che ognuno può dire Matai yagiu maasai le maase avotai Abraham Yitzhak v'Yakov. Cioè ognuno può augurarsi di arrivare al livello di Abraham Yitzhak e Yaakov. Per il potenziale. Per cui praticamente, diciamo così, è l'incontro fra anima e corpo che... Sì, sì. Che? Che praticamente raffina, uno raffina, cioè l'anima raffina il corpo, e poi praticamente il corpo... E l'anima ha il compito di raffinare il corpo, cioè è veramente un lavoro che avviene insieme. Cioè l'anima deve in qualche maniera, come dire, come si dice quando si lega un cavallo alla carrozza? Imbrigliarlo. Imbrigliarlo. Imbrigliare? L'anima deve imbrigliare il corpo per seguire lo scopo voluto dall'anima. Però non lo può fare senza il corpo, certo. Ovviamente, quando si trova in questo mondo, no? Quindi diventa... Ecco perché si dice che non è il compito dell'anima di rompere il corpo, di rovinare la forza materiale, che sia più debole, no? È quella invece di impiegare, di usufruire, di sfruttare quella forza verso la direzione giusta. Quindi è una cosa che viene fatta insieme. Scusa, una cosa, non so, forse c'entra o no con questo, però questa è una cosa che ho pensato l'altro giorno quando leggevo Tania. Che dicevamo che le Neshamot degli ebrei sono parte del divino, no? Forse, correggi se sbaglio, quello per fare chiarezza. Quando noi diciamo che c'è una Neshama, cioè quella è una grande Neshama, no? Però in realtà sono tutte le Neshamot di stesso livello. Bravissimo. Non si può dire che quello è più grande di me, perché se è parte del divino, non puoi dire che una parte del divino è più grande di un altro. È vero. È vero. Ma comunque esiste il concetto che, come anche ricordavi tu prima, c'è l'idea che un Neshama deriva da una fonte più elevata. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Perché se la filiera è quella, cosa vuol dire? Vuol dire effettivamente, credo che si spiega in altre opere di Hasidut, che quando si dice una Neshama elevata, si intende dire che la Neshama... No, che la Neshama... è giunta direttamente da quel livello, da quel determinato livello, senza passare attraverso tutti i livelli, diciamo così, come dici tu, filtri successivi. Quindi può darsi, certo che ogni Neshama alla fine arriva allo stesso origine di tutte le altre Neshamot, è chiaro. Ma potrebbe essere che il percorso sia diverso, nel senso che la maggior parte delle Neshamot passano attraverso tutto il percorso che abbiamo anche descritto in varie lezioni, eccetera. E può darsi che una Neshama particolare ha questo ruolo, diciamo, forse ha un ruolo particolare che deve avere, deve rimanere forse più, scusate, meno offuscato, staccato, no? Diciamo, sì. Meno staccato, e quindi può fare, diciamo così, un salto quantum nella realtà. Una grande Perché a volte si parla di tzadikim. Sì, ma non una persona che ci ha lasciato, una persona viva. No, no, anche un vivo. Che sia viva o no. Cioè, anche di un vivo si dice una grande Neshama, no? Apposta, no. Forse, apposta, a volte può darsi che uno tzaddik, che vede le cose come sono nella loro realtà spirituale, possa dire di un'altra persona, questa è una Neshama particolare. Sì, potenzialmente. Che ha potenzialmente. Viva o morta, non ha importanza. Vuol dire, come ci sono anche storie del Baal Shem Tov, per esempio, no? Che ha incontrato una persona semplicissima, non colta, eccetera. Ha detto, qui c'è una Neshama particolare, sopra la sua testa c'è un fuoco che nessuno vedeva, no? Per dire, perché ci sono Neshamot, persone che hanno questa percezione, possono, magari potrebbero vederlo. Noi non siamo all'altezza, però in questo senso... Sì. Non capivo. Scusa, si sta attribuendo, cioè il discorso, una volontà alla Neshama, esatto, per come va il discorso, cioè, quindi la volontà alla Neshama, ma è c'è una coincidenza o un gap di scostamento con quella che noi chiamiamo comunemente e quotidianamente la volontà di Tizio, o è influenzata, o sono due volontà? È un'ottima osservazione. Quando noi diciamo la volontà della Neshama, fatto molto bene a fare questa domanda, cioè qual è la volontà della Neshama, se è la volontà della persona, della mia identità così come io la conosco, o è una seconda identità che c'è dentro di me? Allora, in realtà, in particolare nel Tanya lo spiega questo concetto, che sono due identità diverse. Vuol dire la Neshama, il desiderio della Neshama è lo stesso desiderio voluto da Dio. E il mio desiderio non è sempre il desiderio voluto da Dio. Se non ho capito male, dovrebbe essere uguale per tutti. È uguale per tutti. Quello della Neshama. Uguale per come tutti. Come potenziale è sempre questo, è setato. Esatto. È il lavoro di... Cosa di, è la mia identità? Cos'è la mia identità che non è l'identità della Neshama? È l'anima animale. È l'anima animale che rappresenta l'ego, che rappresenta la mia identità. Cos'è lo tzaddik? Lo tzaddik è quello che ha creato un'unica identità, che cioè che corrisponde solo all'identità della sua anima divina. La volontà unica, diciamo, esatto. Al massimo. Quindi questo è lo tzaddik, e che essere tzaddik non è necessariamente richiesto da ognuno di noi. Essere tzaddik, nel suo senso più profondo, è uno stato interno della persona. Non riguarda il comportamento quotidiano della persona. Cioè una persona può avere, da noi è richiesto che il nostro comportamento sia più possibile consone al desiderio di HaKadosh Baruch Hu. Non è detto che riusciamo a trasformarci dentro, a tra virgolette eliminare, uccidere il Yetzer Hara, cioè l'anima animale. E non è neanche richiesto da noi, non è questo il nostro compito. Il nostro compito è di sottomettere quel desiderio fino ad avere il comportamento giusto, ma non necessariamente a cambiare il nostro DNA. Per questo i maestri dicono che i tzaddikim sono rari. Sto per dire, è quasi un miracolo. È bravo, è come un dono. Certo. Infatti c'è scritto, i maestri di Chachamim dicono che HaKadosh Baruch Hu ha visto che i tzaddikim, ha visto, cosa vuol dire? Erano ha visto, pochi, però, ha visto che i tzaddikim erano pochi, ha messo gli asparsi nelle generazioni. È come se lui avesse dato un dono. Intanto, in qualche generazione, qui un tzaddik, lì un tzaddik, lì due, per dire, è una cosa rara, è una cosa, in un certo senso, possiamo dire, nel senso positivo, ma credo che si possa usare la parola anomala. Non è che... Paradossalmente anomala. Paradossalmente anomala vuol dire non è la cosa... Non è che uno si vede la mattina e dice, ok, devo diventare tzaddik. Nel comportamento sì. Vuol dire, nessuno può dire, vabbè, mi corrompo, faccio una verà, mai sia, perché comunque non posso essere uno tzaddik. No, non è richiesto da te essere uno tzaddik. È richiesto da te fare la cosa giusta. Nel pensiero, nell'atto e nella parola. Ci vuole quell'anima. Approfondiremo. Di prima, quella che salta i passaggi, ci vuole quella. No, assolutamente. Quella è quello del tzaddik, l'anima che salta. Quella. L'anima che salta è quello dello tzaddik. Quella. Sì, però che vuol dire ci vuole? Se non è richiesto vuol dire non è il nostro ruolo. Ma è un obiettivo verso il quale tenere la barra, diciamo. No, non lo è. No, non per arrivarci, ma per essere ispirati nel giusto comportamento. Ma no, detto è un obiettivo da, diciamo, da tenere come esempio. Un esempio, sì, sì. Come ispirazione per il comportamento corretto. Sì, sì, sì, questo sì. Questo sì, sì. Non per essere arrivare a ragione. Data cioè, no, se uno di voi ha la possibilità di diventare un tzaddik, non voglio distogliervi da questo, però ognuno deve anche allora conoscersi bene. Grazie. È importante. Se non ti conosci subito. È molto importante essere onesti con se stessi. Esatto, no, sai. No, ovviamente anch'io sto scherzando, però c'è anche della verità in questo, sì, sì. Perché a volte si sbaglia su questo, no? Sì. E poi oggi c'è la moda che tutti sono tzaddikim, sì, no? Sì, questo è un tzaddik, sì, quello è un tzaddik, diventa tzaddik. Diventa è un modo di dire, no, si può usare, perché quasi, ovviamente la persona ha libero arbitrio, però quasi, diciamo, esattamente. È anche vero che la parola tzaddik può avere diversi sensi. Io sto parlando adesso del senso spirituale della parola tzaddik, il senso mistico, ma il senso tecnico è un altro. Tzaddik vuol dire giusto, ma giusto in che senso? Per esempio, se c'è un processo, ci sono due parti, c'è una sentenza, uno è colpevole e uno è tzaddik, cioè sta nel giusto. Questo anche vuol dire tzaddik. Tzaddik ha ragione, gli è stata data la ragione. Allora, nel senso tecnico, diciamo così, se andiamo a fare un giudizio di una persona secondo il suo comportamento, allora se vediamo che la maggior parte del 51% sono mitzvot e il 49% sono averot, allora nella bilancia è tzaddik, vuol dire esce fuori dal processo nel giusto, non nella colpa. Però non ha niente a che vedere con il concetto di tzaddik, di quello che stiamo parlando qui a livello spirituale. Un altro concetto. Lì il termine tzaddik è preso in prestito, diciamo così. Non è il senso profondo del termine tzaddik. Grazie a voi. Allora, solo concludiamo un attimino questo capitolo. Vediamo dove arriviamo. Allora, abbiamo parlato di chi ha sete. E il versetto della Torah che diceva le man sfot harava et atzemea, cioè che chi è in uno stato di ebbrezza è sazio, diciamo, dall'aver bevuto. Si contrappone quello che è sazio e quello che è invece assetato. Allora, la parte assetata l'abbiamo spiegata approfonditamente, sia oggi che nelle altre lezioni. Ora vediamo cosa vuol dire la parte sazia. Chi è quello che è sazio in questo contesto? La Neshama è assetata, la Shekhinah è assetata, vuole tornare verso la propria fonte. Chi invece è sazio? Ora dice Verrava, chi è quella che è sazia? Nikra, questo è un riferimento sempre alla stessa persona, ma quando il desiderio prevalente è quello dell'anima animale. Masherozele malotta avato gashmit, quando vuole soddisfare il desiderio materiale, gashmi. E di conseguenza in quel momento non sente più la sete dello spirito, del divino. Ven lo razon vezimon la lekut. Ovviamente la persona non può avere due sentimenti contrari nello stesso momento. Quando è assetato di kedusha, allora sta in un certo contesto. Quando invece è in un stato d'animo che vuole soddisfare un desiderio dell'anima animale, allora lì possiamo dire è sazio. Non è più, nel senso, non ha la sete per il divino, in questo senso. Kim ikar hefzo vecheshko, in quel momento il suo il desiderio, la sua volontà maggiore è tanugim gashmim, qualsiasi desiderio fisico materiale che sia, ubahem meravezimono, e con quelli può saziarsi. È in questo mondo materiale, quindi può saziare il suo desiderio della volontà, del desiderio fisico. È un concetto contrario quasi a quello che per sazietà si intende. Se io ho sete di qualcosa, sete, quando bevo sono sazio, cioè quando raggiungo ciò che mi spinge, che sì. No, quello che stiamo dicendo è questo, non ho capito io. No. Invece qui è sazio quando è sazio contrario. Quando è contrario, sì, ha preso il terreno, ha preso la parte, per me la parte, io sarei andato avanti a pensare sazio quando sono arrivato dove dovevo arrivare. Ok, allora invece, per questo sta spiegando, sazio vuol dire la mancanza di sete. La sete qual è? È la sete per lo spirito. Quando la persona, cioè, e quando il suo desiderio che prevale è quello per la materia, allora non c'è più la sete per lo spirito. In questo senso sazio. Non parliamo della sazietà. Non la sazietà. No, ecco. Della se no mi quadravo. Se avessi avuto sete non avresti avuto quella. Ci sono due fasi di questa sazietà. Uno è la mancanza di sete per lo spirito e l'altro è, come vedremo nella prossima riga, e l'altro è quello di potersi saziare del desiderio materiale. Quello materiale. Sì, entrambi gli aspetti ci sono. Come dice Vegamia, cholera vozimonobase, e può saziarsi. L'anima divina, quando ha sete del divino, non può saziarsi finché non lascia questo mondo. Invece l'anima animale, quando ha sete di questo mondo, può saziarsi. Vero? Del desiderio materiale. Fisce mesumanim lefanav. Quei desideri sono pronti davanti a lui, sono accessibili, come appunto abbiamo detto, lo leggiamo adesso, chi ha nefesh elokit, per ciò che riguarda l'anima divina, simonà, la sua sete, vecheshka, il suo desiderio, l'elokut, il suo desiderio e la sua sete è verso la divinità, e non sazia questa sete appagandosi col desiderio materiale. Veina meravazi monah hasve shalom bidvarim gashmim. che in Hefza Becheshkal Elokut rimane la sua sete verso il divino. Varehi Bibchinatzmea. E rimane sempre in uno stato di sete l'anima divina, ecco, per quanto rimane su questo mondo. Viridatale Mata. E Tamid Hibetzima Onze. È costantemente in questo stato di essere assetata. Velo Tuchallera Vozimona. E non ha la possibilità di appagare, di saziare questa sete quando si trova in questo mondo, perché in questo mondo la divinità non è rivelata. Chi è locute in nome Iro Mitgale Atabi Gilui Mamash. Che in vedere chiediata Metziut. Qui è solo possibile conoscere la esistenza del divino, cioè sapere che Dio esiste, che la divinità esiste, ma non avere la conoscenza intima come una cosa che uno vede. Lo ha sagata Mahut Mamash. Finché questo sarà possibile in questo mondo solo quando Mashiach verrà. Adlat idlavo dichtiv, come detto, velo ikanef od morecha, il tuo maestro è un riferimento ad Akadosh Baruch Hu, non sarà più nascosto. Dice il profeta Yeshayahu, sì, Isaia. Sheaz itgale bchinat ha-ma'ut mamash. Allora sarà rivelato non solo a livello di esistenza, ma a livello di conoscenza. Questa è una cosa che non si rivela in questo mondo così come lo conosciamo adesso. E di conseguenza, velachen bchinat tzmea tamid, è sempre assetata la neshama. Questo è la neshama divina. Aval, contrasto si fa, come dicevamo, con l'anima animale. Aval, nefesh be'amit, cheshka v'tzimona, la sua sete e il suo desiderio è verso le cose materiali. Lidvarim, gashmim. Geshem, la materia. Ubaze, imeravazimona. E quindi potrebbe saziare la propria sete. Ubefsharale ravozimona. E ha la possibilità di farlo. Perché è tutto presente, come dicevamo. Shemezumanim lefanea. Vealderech shamru raboteinu lezichronam livracha. Come dicono i nostri maestri nel trattato di Shabbat, nel Talmud. In aramaico, let atir mechazira. Non c'è un animale più ricco di un chazir, di un maiale. Perché? Perché visto che mangia tutto, incluso i rifiuti, allora ha sempre il proprio cibo presente. Non c'è più ricco di lui. Quello che gli serve c'è sempre, perché qualsiasi cosa va bene. Le fische machalò psolet, perché siccome si ciba anche di rifiuto, lachen machalò muchan umezuman lefanav tamid, ha sempre presente il suo cibo. Ubenakele asig mevukashov et avato, e ha facilità a raggiungere il suo ciò che desidera. Mochen hu betanugim agashmim, è uguale, possiamo dire, per i desideri materiali, per l'anima animale, per la nostra parte più evidente, per tutti noi. Di adua shen, qui dice un concetto mistico, di adua shen psole tatanugim elionim. Ubenakela sigam ravazimonav al kenikrarava, fa un paragone tra questo comportamento e quello che abbiamo citato del maiale, che si ciba di rifiuti. Dice, i desideri materiali a livello cabalistico, si spiega, sono considerati i rifiuti dei desideri spirituali. Che cos'è che i desideri materiali, sì. Sono considerati a livello mistico i rifiuti dei desideri spirituali. Però sui desideri materiali a volte, no? Cioè, in alcuni desideri materiali facciamo anche la berakà, nel senso, se io ho un desiderio di bravo qualcosa, ci faccio la berakà. Bravissimo, abbiamo approfondito questa cosa in precedenza, cioè il nostro scopo non è di scappare dal materiale, ma di utilizzarlo in maniera giusta. È vero? E lì, in quella situazione e in situazioni simili, rientra nella Kedushah. Cioè, noi abbiamo la possibilità di trasformare la materia o l'aspetto negativo della materia in un aspetto spirituale, un aspetto di Kedushah addirittura. La berakà magari serve per farci capire che non dobbiamo subito andare... Bravo, bravo, la berakà ci aiuta... però la berakà da sola non è sufficiente, vuol dire io posso fare la berakà su una bella bistecca e poi non pensare a nient'altro, e va anche oltre la berakà, cioè perché sto mangiando, cosa farò con l'energia che ho tratto da quel nutrimento, eccetera, cioè tutta la, non c'è fine, no? Però la berakà ti dà l'impostazione, giustamente. Abbiamo spiegato l'energia. Questo... che ci faceva il cibo, sempre qui l'energia. Sì, sì, l'abbiamo studiato, sì, sì, sì. Questa cosa che i desideri sono i rifiuti dei desideri spirituali mi ricorda una storia di un Hasid che un chassid del Rebbe Rashab, dell'autore di questa opera, che negli anni 20 già era giunto negli Stati Uniti, in America, e dicevano di lui che lui non ha mai alzato la testa per guardare i grattacieli. Cioè, tu per natura vedi il grattacielo, no? Ah, incredibile. Non ha mai alzato la testa per guardare, ha detto: qui gli angeli hanno fatto tanti rifiuti, perché li devo guardare? Che mi porta? Come concetto che la materia è rifiuto delle cose spirituali. Incredibile, no? È proprio una mentalità, è un modo di vedere il mondo. Se non mi interessa. Sembra un po' che dica che non dobbiamo confondere il fine con il mezzo. Bravissimo. La spiritualità è l'obiettivo, la materialità è solo ciò che ci permette di arrivare. Esatto, esatto, è la materialità è un mezzo per arrivare a un fine, non un fine per sé. Aggiungiamo un altro pochino, se siete d'accordo. Ok, allora, terzo capitolo, Veseu, 175 verso la fine. Veseu vitbarech bilvavo lemor shalom yeli. Lo stesso versetto del Devarim che parla della setata, che abbiamo detto è la neshama, è quello sazio che invece è l'anima animale, dice che la persona si autoconvince, vitbarech bilvavo, si autoconvince dentro di sé, nel proprio pensiero, in cuor suo, dicendo: Shalom Yeli, tutto mi andrà bene, avrò la pace. Seguo quello il mio istinto e mi andrà tutto bene. Così dice la Torah, che una persona si convince. Lì parla anche nel contesto proprio di Avodah Zarah, ma vale per qualsiasi cosa del mondo materiale, che la persona intraprende una strada che sa di essere sbagliata, però si autoconvince che andrà tutto bene, non è così grave, poi mi rimetterò, poi comunque non sarà così non sarà così dannosa, eccetera. Afalpi shebishrirut libi elech, nonostante, come dice appunto quel pasuk, quel versetto, camminerò, andrò nella strada indicata dal mio cuore, cioè secondo il mio desiderio base, bishrirut libi, dove il mio cuore vuole, mi colma com shalom yeli, comunque tutto mi andrà bene, avrò la pace. Le man se fota rava et azemea. In questa maniera, perché? Perché se fota, abbiamo detto, vuol dire connettere, legare la assetata a quella che sazia. Che vuol dire? Come lo spiega qui, molto interessante. Sheikhaber harava et azemea. Che lega la parte sazia, cioè l'anima animale, alla parte assetata, cioè l'anima divina. In altre parole, l'anima animale trae forza dal divino attraverso l'anima divina, perché l'anima divina si trova nella persona, no? Gli dà vita. Allora, sheyamshich hayut mitzmea l'erava besod raglea yordot mavet, moshnit berleil. Cosa abbiamo spiegato prima? Nel quinto capitolo abbiamo spiegato che la Shekhinah scende giù. Ecco perché è assetata, vero? Abbiamo parlato della Hei, l'ultima Hei del nome di Hashem, che in qualche maniera è più divisa dalla sua origine. Abbiamo detto Hei Tzemea, Hatzemea, la assetata, la Hei assete, questo livello assete. Perché? Perché si veste nella parte più bassa della creazione e rimane vestita anche dentro, come conclude questo paragrafo, la persona che pecca addirittura, cioè che va contro la volontà del divino, comunque dentro di lui c'è questa fonte di forza, di energia, che è l'anima divina. Allora la persona dice: mi andrà tutto bene. A livello mistico il senso è che la parte assetata, cioè l'anima animale, deriva e trae comunque energia e forza dalla parte divina. Anzi, lo tira giù ancora di più con sé. Il versetto che cita Ragleha Yordot Mavet dai proverbi, cioè le sue, si fa questa metafora di questa bella donna che però le sue gambe scendono verso la morte. In altre parole, è una cosa che ci potrebbe essere un desiderio, una cosa che sembra essere molto bella, molto positiva, però poi la fine, Ragleha, le gambe, i piedi scendono verso la morte, cioè portano al male totale, in questo contesto Con quale forza? Con la forza presa dall'anima divina. Ecco che si ripete il concetto del Galut, l'esilio della Shekhinah, l'esilio della Neshama, perché viene tratta in qualsiasi cosa che la persona fa, in qualsiasi comportamento che intraprende, trae con sé, tira con sé anche la Neshama che ha dentro. Dato che sono legate, no? Esattamente, perché sono legate, bravo. Moshkatu, Bigerta Teshuva, andiamo un po' avanti qui, come è scritto nel Tania, nella parte che parla della Teshuva. Moshe Nitbaer Bigerta Teshuva, della Achara Hurban, seconda riga del 177. Dopo la distruzione del Bet HaMikdash, che è causata dai nostri peccati, Shegarmu Bavonotehem, Sheyarda Hashpat Bechinatei Tata Kanal, e quindi scende, come abbiamo spiegato in precedenza, diciamo, questo livello che si chiama la Hei, la seconda Hei del nome di Hashem. Azai Achol Gam Achoteu Poshe Israele Kabel Chayut Legufam Venosham Bamit, Moshar Bale Chaim Mamash. Quello che sta dicendo qui veramente è un altro concetto, ed è legato a quello che diceva prima Alberto sulla Neshama, se è la sua identità o un'altra identità. Faccio una brevissima spiegazione. Il senso è questo. C'è scritto nella Torah che per alcuni comportamenti che sono considerati dalla Torah peccati, avonot, ci sono a volte delle pene spirituali, come può essere il karet. Karet cosa vuol dire? Allora, come è definito nella Halakha, nel Talmud, eccetera, che il karet vuol dire che una persona vive fino a una certa età, non oltre. Allora, la domanda che ci facciamo è, vediamo molte persone che sono passibili di questa pena e che vivono 120 anni forse. Allora, come si spiega? Allora, quello che lui ha citato qui dal Tania, dalla sezione del Tania che parla della Teshuvah, è che lì lui dà una spiegazione su questo tema qui e dice che quando eravamo spiritualmente più elevati, e si identifica questo periodo con il tempo in cui c'era il Beit HaMikdash, allora il legame tra la Neshama e la persona era più aperto, più evidente. Allora vuol dire che un effetto spirituale era più legato all'identità aperta della persona, e quindi si vedeva che la persona che era passibile, per esempio, di una pena di questo tipo, si vedeva che effettivamente era così. Cioè, però dopo, visto proprio per la galuta Shekhinah, l'esilio della Shekhinah, cosa succede? Succede che la persona riceve la sua energia di vita quasi in maniera esclusiva dall'anima animale, non dall'anima divina, cioè l'anima divina è ancora più nascosta. Dice, come gli animali, come se non ci fosse niente di veramente spirituale, di divino dentro di sé. Cioè meno percepibile. Meno percepibile, e quindi è come se ci fosse un blocco, è come se non arrivasse, diciamo, a livello fino alla materia, quel tipo di cosa. Quindi magari la sua anima, quando sale su, dovrà scontare la pena in un'altra maniera, però in questo mondo il distacco è così lontano a livello spirituale che è come se quasi non ci fosse più. Cioè non vive quella, più spiritualmente. Non vive, sì, possiamo dire in parole povere, così. Che è peggiorata la situazione. Esattamente, proprio perché è peggiorata. È allora, in senso, cioè, la persona ha guadagnato più anni di vita perché la situazione in realtà è peggiorata. È diventato più difficile vivere. Esattamente. Ecco, quando c'è lo Sadik in un contesto più difficile. Esatto, esatto, sì. Può essere anche un segnale che una persona non riesce ad andare avanti spiritualmente? È più difficile. Cioè? Che senso uno prova un blocco. Non riesce. Sì, è scritto anche questo. Cioè, in generale, cioè il difficile, che c'è meno che d'uscita, ecco. Allora, il comportamento non consone al desiderio di Hashem fa sì che la persona diventa più, diciamo, offuschi più la presenza del divino dentro di sé. Quindi deve non è impossibile, è sempre possibile, però deve lavorare più duro per raffinare se stesso, per uscire fuori da questo ciclo, diciamo. Cioè, chi non ha mai peccato, chiaramente, ha ritenuto più quella identità o quell'apertura verso il divino, ovviamente siamo tutti nella materia, nel quindi non è che... Però chi invece ha peccato e ha fatto tante cose, allora cosa succede? È come se crea un altro strato di nascondimento della sua parte divina verso la parte spirituale. E quindi questo è il concetto della Teshuvah. La Teshuvah è proprio è proprio il liberarsi. Abbiamo parlato di prigionia dell'anima, no? La Teshuvah è il liberarsi da questa prigionia. E che per fare Teshuvah alla fine si richiede solamente una cosa, un movimento, però un switch. Però è difficile. Poi è un percorso, chiaramente. Perché se uno è più, se tu sei tanto nascosto, c'hai tanti clipot, no? Che ti impediscono. Sì. Cioè, per far sì che tu fai Teshuvah, devi avere un attimo sete. Sì, è vero. Come ci arrivi alla sede? Se allora, sei coperto? No, no, è un ottimo punto ed è anche scritto che a nome del Baal Shem Tov c'è scritto, c'è una Mishnah nel trattato di Avot che dice che c'è una voce dal cielo, che un bat kol, un eco che esce ogni giorno e dice ahimè che per tutte le creature che la Torah è svergognata, cioè non è guardata, eccetera. Allora dice, scusa, ma questa voce chi la sente? Cosa serve questa voce se non la sente nessuno, no? Allora dice, ogni persona in qualche momento della sua vita, non solo in un momento, in vari momenti, potrebbe essere che sente una sete. Cioè, da dove viene questa sete? Specialmente se, come dici te, una persona che è talmente nascosto il suo divino, da dove viene questa sete? Dice, è la Neshama che sente questa voce. E a volte riesce a spaccare tutte le clipot, tutte queste bucce, tutte queste cose intorno, e arrivare alla persona. Allora, il nostro compito è che quando abbiamo quel piccolo raggio di sete, quella cosa che succede a tutti, che in qualche momento sente quella scintilla, di sfruttarla. Perché come un richiamo dall'alto, però alla fine, come si dice, aiutati, che Dio ti aiuta, no? E diventa poi comunque il nostro ruolo. Allora con questo concludiamo oggi e se Dio vuole proseguiremo.